tu fai una certa ricerca sul linguaggio, si capisce che è un linguaggio ricercato, studiato, e ho letto un'intervista dove dicevi che detesti i romanzi che vengono scritti come giornali, con un linguaggio quasi di cronaca, con un linguaggio troppo comune. Secondo te, appunto, perché, ecco, questa tua posizione così dura nei confronti della lingua, e quanto ci lavori sulla tua lingua? No, la mia non è una posizione dura, nel senso che credo che a molta narrativa italiana si chieda di fare la super sociologia, cioè di scrivere quello che scriverebbero i giornali in miglior prosa. Allora io, a differenza di molti narratori, penso che i giornalisti in Italia fanno bene il loro lavoro e quindi continuino a fare il loro lavoro. I romanzieri, i narratori devono fare un altro tipo di operazione. E in questa operazione il discorso della lingua è fondamentale, perché io ho anche un certo pudore, nel senso, uno inventa storie. E per quale motivo dovrei infliggere ai lettori, alle persone appunto che con queste storie hanno a che fare, le mie fantasie? Che diritto ne ho? Diciamo, me lo chiedo. E la risposta che mi do è che nella mia invenzione spero ci sia qualcosa di interessante, ma soprattutto deve esserci un linguaggio che, come dire, crea un mondo, lui stesso, lo stesso linguaggio che fa saltare, come dire, le convenzioni dominanti, per così dire. L'altro aspetto ha a che fare con la storia della narrativa, della letteratura dal Novecento a oggi. Cioè, è come se si fosse fermato qualcosa. Dopo la grande stagione del modernismo, dopo Joyce, dopo eccetera eccetera, la narrativa è diventata come un'arte reazionaria, cioè da una parte si è andati verso l'avanguardia, però l'avanguardia non dice quasi nulla, ormai non comunica più niente, e dall'altra parte si è recuperato un linguaggio conciliato, un linguaggio che vuole essere appunto ammiccante, facile, rassicurante. Io credo che invece bisogna costruire una lingua, il che non vuol dire che bisogna scrivere difficile, perché io poi penso che, per esempio, in questo romanzo ho cercato di fare un'operazione, cioè di mettere insieme alcuni termini molto alti con termini molto gaglioffi e volgari, e poi anche di mettere insieme linguaggi tecnici, perché quello della cartografia è un linguaggio. Grazie a Vittorio Giacopini, autore di La mappa, pubblicata dal Saggiatore. Vi ricordo che questo è uno dei 5 romanzi finalisti del Premio Campiello. Ora una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Ci sono dei libri che colpiscono proprio, come dire, un po' nello stomaco per tante ragioni, e della sensazione che ho provato leggendo Le piene di Grazia, l'opera prima di Carmen Totaro, pubblicato da Rizzoli. È un romanzo strong, un romanzo forte per la storia che racconta e per la lingua che usa, perché è una lingua netta, precisa, senza fronzoli, che va direttamente al punto, potremmo dire. La storia, dicevamo, è particolarmente forte, è ambientata in Puglia, nella provincia di Foggia. Ci sono due sorelle e fin dall'inizio si capisce che c'è un dramma. Vi leggo proprio le prime righe, l'incipit. Non era stata portata in caserma con la forza. All'arrivo dei carabinieri, donna Palma Castro Cappone si era infilata scarpe, soprabito e foulard e le aveva seguiti di buon grado. Quindi si capisce, insomma, che una delle due protagoniste, Palma, è destinata ad andare in carcere. Poi si vedrà perché. Carmen Totaro, questa, come dicevo, è una storia piuttosto forte, è una storia di due sorelle, una delle due, insomma, muore, lo diciamo subito, ed è una storia anche di ricerca della vendetta. Perché come opera prima hai scelto di debuttare con una storia, insomma, che per qualcuno può essere anche un po' disturbante in qualche punto? A me piacciono le storie forti. Quando leggo vado alla ricerca di un certo tipo di libri e probabilmente scrivendo ne vengo anche influenzata. In questo momento non avrei saputo scrivere altro, insomma, mi interessava parlare di donne, di fragilità femminile, di donne che vanno incontro a un destino fallimentare in fondo, entrambe le protagoniste di questo libro. Entrambe le protagoniste, lo ricordiamo, Palma, che abbiamo conosciuto nell'incipit, e c'è la sorella Maria Rosaria. Maria Rosaria è un po' considerata la perla del paese dove abitano, insomma la ragazza anche più ambita da tutti, quella che nelle processioni religiose occupa, come dire, la parte principale. E a questa ragazza succede qualcosa, insomma, questa ragazza si innamora forse dell'uomo sbagliato? In pratica sì, si innamora dell'uomo sbagliato